chiuso da tempo in questa fila di sangue, fila di sangue, fila di sangue. Ora sei fila e non riesci più ad uscire. No, non ci sto.